Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E credo che ci debba essere grande chiarezza su questo punto. L'Europa è nata per abbattere i muri, non per costruirli. E si continua a ripetere, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, da tempo questa cosa. Renzi l'ha detto poco fa in conferenza stampa, perché ha incontrato a Modena Hollande, il presidente francese, col quale hanno parlato appunto dell'emergenza immigrazione, e poi era già lì, era già in Emilia Romagna Renzi, perché è andato a fare una visita nel Piacentino, dove sapete ci sono state le gravi alluvioni, e poi so che staranno cenando probabilmente in questo momento in un noto ristorante, soprattutto con un notissimo chef. Hollande potrà gustare specialità italiane. Chissà se ci sarà la rivalità italiana-francese come qualche giorno fa nelle frasi di Renzi. Ve l'ho fatto sentire proprio qui effetto notte, che diceva vino italiano, perché il vino francese riesce a esportare di più, vino italiano è meglio. Non lo posso dire perché tra pochi giorni incontrerò Hollande. È avvenuto questa sera, e questa sera parleremo naturalmente sempre dei vari sviluppi che riguardano i vari fronti che si aprono man mano e si chiudono sulla questione immigrazione, e poi ci occuperemo anche di economia, perché era tanto attesa questa decisione della Fed, cioè della Banca Centrale Americana, sui tassi. Li alzerà, li abbasserà, li lascerà uguali? Che farà? Tanto si attese che nulla si mosse, nel senso che li ha lasciati invariati. Cerchiamo magari di capire che cosa significa questo anche per l'economia mondiale. Sempre per quanto riguarda l'economia, però quella strettamente italiana, il presidente di Confindustria Squinzi ha detto che, insomma, non ha detto proprio che vede rosa, che però vede le stime per il prodotto interno lordo al rialzo, e anche si dice ottimista sull'occupazione. Anche di questo ci occuperemo, così come di un esperimento che potrebbe far ben sperare per la sterilità maschile, cioè sono stati creati in vitro per la prima volta al mondo degli spermatozoi. E vedremo se effettivamente è una scoperta questa che può risolvere almeno in parte l'infertilità maschile. Poi ci sono moltissime altre cose, ci sono le partite di Europa League, c'è un Napoli che ha battuto per 5-0 il Bruges era particolarmente, diciamo, sottotono, il Napoli era particolarmente in forma, ma è il caso intanto di partire con le notizie. Vi ricordo, per i vostri commenti sulle notizie del giorno, anche su questa scoperta, sempre sono i due canali, uno è la pagina Facebook di Effetto Notte, l'altro invece la possibilità di mandare sms al 349-238-6666. Riforme tra le proteste in Senato, avanza il DDL Boschi, e il presidente Grasso avverte: l'istituzione non si mette nel museo. Migranti sono oltre 7.000 i profughi arrivati in Croazia, anche sfondando le barriere. Zagabria dice: siamo saturi. Il 23 settembre, vertice straordinario dell'Unione Europea. Costo del denaro, la Fed lascia invariato, i tassi, che restano fermi in una forchetta tra lo 0 e lo 0,25%. L'economia italiana, la Confindustria vede la ripresa, una crescita del più 1% per il PIL e più lavoro. Il terremoto in Cile, 10 vittime per la scossa di magnitudo 8,3, 1 milione di evacuati per paura dello tsunami, ma l'allerta è rientrata. Ucraina, dopo la visita di Berlusconi con Putin in Crimea, Kiev vieta all'ex cavaliere l'ingresso nel paese per 3 anni. Scienza e salute, creati spermatozoi in vitro, è la prima volta al mondo, potrebbe essere un aiuto per la fertilità, e risultano positivi i primi 18 trapianti di staminali su malati di SLA. Sport, agli europei di pallacanestro, Italia batte Repubblica Ceca 85-70, e per l'Europa League in Napoli travolge il Bruges per 5-0, ora tocca a Lazio e Fiorentina. Iniziamo quindi dal confronto, scontro si può dire naturalmente, visto che è iniziata la battaglia al Senato, sulla riforma del Senato stesso. Il disegno di legge Boschi procede, ma non mancano i colpi di scena. Nell'aula di Palazzo Madama la maggioranza supera il primo voto sulla riforma costituzionale, respinte le questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni, anche grazie al voto della minoranza PD, che insiste però nel chiedere di modificare l'articolo 2 e introdurre l'eleggibilità dei futuri senatori. Mercoledì scade il termine per presentare gli emendamenti. Toccherà poi al presidente del Senato Grasso valutare la loro ammissibilità dopo la doppia lettura della riforma. Proprio su Grasso va in pressing il premier Renzi. Se il presidente del Senato riaprirà la questione dell'articolo 2, ascolteremo le motivazioni per cui ha riaperto e decideremo di conseguenza. Sono giorni convulsi e i prossimi lo saranno di più, commenta dal canto suo Grasso, che replica anche ad una battuta attribuita a Renzi ma poi smentita da Palazzo Chigi, aggiungendo: non si può fare a meno delle istituzioni relegandole in un museo. I verdiniani nel frattempo fanno sapere di essere pronti a votare la riforma e si candidano ad entrare nella maggioranza. Annunciano battaglia invece le altre opposizioni. Il leghista Calderoli evoca lo spettro del fascismo, mentre i 5 Stelle si appellano al presidente Mattarella e per protesta abbandonano la Commissione Affari Costituzionali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio Renzi è stato nel Piacentino, come vi dicevo, a 4 giorni dall'alluvione che ha provocato anche delle vittime. Un sopralluogo in elicottero, un incontro in prefettura con i sindaci dei comuni colpiti. C'era anche Bersani, nato a Bettola, dalla quale provenivano 2 delle 3 vittime, padre e figlio, uno dei quali ancora disperso. Bersani è in zona da giorni e a Renzi aveva inviato un messaggio chiaro su Facebook: si sta spalando il fango e ancora si cerca una vittima. A Piacenza non voglio parlare di riforme delle quali si può discutere a Roma. Così è andata. Renzi ha precisato che sarà dichiarato nelle prossime ore lo stato di emergenza e che, come in Veneto, per alcuni comuni ci sarà una deroga al patto di stabilità. L'esecutivo intende venire incontro ai cittadini con un possibile rinvio fiscale. Ancora lontano il ritorno alla normalità, la scuola di Bettola ha riaperto, ma a Farini e a Ferriere riapriranno lunedì, poiché ci sono ancora problemi di viabilità locale. Ammonta intanto a 4,7 milioni di euro il bilancio provvisorio dei danni alle aziende agricole dell'Alta Valnure, emerge da un'analisi della Coldiretti. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E stasera Renzi, vi dicevo, ha incontrato Hollande a Modena, ha fatto la conferenza stampa parlando, perché si sono incontrati soprattutto sull'emergenza immigrazione, ha fatto la conferenza stampa, vi ho fatto sentire prima un breve passaggio e vi dicevo che ora sarà a cena da un noto chef, anche se Roberto da Modena dice: scusi il campanilismo, scrive al 349-238-6666, ma all'Osteria La Francescana si mangia modenese. Beh, immagino che a Modena si mangerà modenese non dappertutto, ma probabilmente da molte parti. A proposito invece dell'emergenza immigrazione, della quale appunto hanno parlato Renzi e Hollande, oggi sono stati scontri anche in Croazia, dove sono arrivati 7.300 profughi, così dicono le autorità. Molti hanno sfondato addirittura le barriere create dalle forze dell'ordine. Zagabria ha fatto però sapere in serata che il paese è saturo e non può più accogliere nessuno. Il premier ceco della Repubblica Ceca ha detto: ne accoglieremo migliaia, e il presidente della Romania ha fatto sapere che ne accoglieranno più di quelli che sono entrati al momento. Passiamo alla politica monetaria. È stato il giorno della Fed, la Federal Reserve, la banca centrale americana. Era molto attesa la decisione della banca sull'alzare o meno i tassi. Come vi dicevo, la Fed lascia invariato il costo del denaro. I tassi restano fermi in una forchetta tra lo 0 e lo 0,25%, e poi cercheremo di approfondire questo argomento. E per l'economia italiana la Confindustria vede la ripresa, una crescita del più 1% per il prodotto interno lordo e anche più occupazione, e anche di questo ci occuperemo più tardi. Siamo sulla pagina estera. Col terremoto in Cile, 10 vittime ci sono state per la scossa di magnitudo 8,3, 1 milione di evacuati per paura dello tsunami, ma per fortuna al momento l'allerta è rientrata. A Berlino un terrorista è stato ucciso dalla polizia, si chiamava Rafik Y ed era un membro di Al-Qaeda, secondo quanto scrive la Bild Online. Il terrorista è ucciso da un agente di polizia a Berlino dopo un agguato a una poliziotta compiuta con un coltello. E poi una notizia che arriva dal Sud Sudan: 85 morti per un'esplosione di un'auto cisterna. Lo ha riferito un portavoce governativo, precisando che il mezzo si era ribaltato sul margine di una strada ed è esploso mentre la gente del posto, pensate, era corsa per prendere il carburante che fuoriusciva da questa cisterna, che poi esplosa appunto facendo 85 morti. E parliamo anche di questa notizia: nell'ingresso vietato in Ucraina per i prossimi 3 anni per Berlusconi, reo di aver accettato l'invito di Putin in Crimea, Crimea che Mosca faceva parte dell'Ucraina, che Mosca si è annessa, e adesso vediamo, si tratta anche di una questione che riguarda una bottiglia preziosa di sherry. Spazio nei TG russi di prima serata per Berlusconi, che affianca Putin nel bagno di folla di fine estate tra i turisti della Crimea. L'Ucraina, spettatrice impotente della pantomima, accusa i due di aver fatto fuori uno sherry del 1765 dalle cantine di Massandra e apre un'inchiesta per appropriazione indebita di bottiglia da $150,000. Scambio d'accuse surreale, con Berlusconi che viene bandito dal paese, cosa che non gli impedirà di tornare nella penisola che Kiev non controlla più. Putin sornione, gli regala il Grand Tour della costa e trova pure il tempo per firmare un documento che riabilita la minuscola comunità italiana di Crimea da un vecchio editto comunista dimenticato dalla storia. Un nulla venduto da qualcosa, da servire in prima serata, ma l'ex premier è soddisfatto. Ho visto io la firma. Entrare nelle liste nere che i due paesi si scambiano da mesi non cambierà certo la sua vita, né quella per esempio di Rafiska Shapov, il presidente dell'ONG Centro Pubblico Tataro, condannato a 3 anni di reclusione per incitamento al separatismo e all'odio interetnico per aver criticato su Kontaktie, il Facebook russo, l'annessione della Crimea da parte di Mosca. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Scienza e salute, buone notizie per l'infertilità maschile. Creati degli spermatozoi in vitro, è la prima volta al mondo che succede, l'annuncio viene dalla Francia e potrebbe essere un aiuto per la fertilità. Non mancano però le riserve della comunità scientifica, poi sentiremo un esperto della materia. Positivi poi i risultati per un'altra ricerca dei primi 18 trapianti di cellule staminali cerebrali su malati di sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, nell'ambito della sperimentazione condotta dal professor Angelo Vescovi. Dimostrata la sicurezza del trattamento, in 3 pazienti si è avuto anche un beneficio neurologico. Nel 2016 partirà la fase 2 su 70 pazienti. E ora siamo allo sport, con gli europei di basket a Lille in Francia, dove l'Italia ha battuto la Repubblica Ceca. Credo sarà soddisfatto Carmelo Presti Simone. Ciao Carmelo. Ciao Roberta, decisamente soddisfatto, sì, perché l'Italia va al torneo preolimpico che si giocherà i primi di luglio. Occorreva una vittoria e la vittoria è arrivata, come dicevi tu, contro la Repubblica Ceca, battuta in modo netto 85-70, qualche difficoltà solo nel primo periodo con Veseli che nei primi 10 minuti ha raccolto già un buon bottino, 11 punti, poi Bellinelli e Gallinari iniziano a orientare la partita con le triple e i canestri da sotto. Nel terzo periodo l'Italia vola, 14 punti nei primi 5 minuti con le due triple di Bargnani, 21 punti alla fine per il mago, che ci allontanano sul più 17. Gli ultimi 15 minuti vanno gestiti e l'Italbasket riesce agilmente nell'operazione. Bene anche Alessandro Gentile, 15 punti, accusato un po' da tutti per quella penetrazione a 9 secondi dalla fine della gara di ieri contro i lituani, che in quell'occasione lo hanno chiuso, hanno difeso molto bene su di lui. E poi i ragazzi del Baltico, come sappiamo, l'hanno spuntata all'overtime fermando il percorso degli azzurri in questi europei. Il discorso, se mi permetti Roberto, è che sì, non esiste solo l'Italia sul parquet, ma ci sono anche, certo, gli avversari, e la Lituania, che ha mandato a casa l'Italia anche 2 anni fa nell'Europeo in Slovenia, ha dimostrato di essere una squadra solida nella doppia dimensione, esterni e lunghi, e soprattutto ha dimostrato saper difendere, e la difesa spesso ti fa vincere le partite. Intanto qui allo stadio Pierre Mauroy di Lille si sta giocando davanti a 27.000 persone la prima semifinale tra la Francia e la Spagna, Francia avanti più 5 quando manca 1:30 alla fine del primo periodo, davanti a 27.000 persone, è uno scenario davvero suggestivo e molto bello per la pallacanestro e per tutto il movimento cestistico. Grazie, buon divertimento Carmelo Presti Simone, mi ha dato tutta la soddisfazione. Sentiamo se Giovanni Capuano è soddisfatto invece al momento. Cioè, l'Europa League, un Napoli che 5-0 contro il Bruges, che è successo? Sì, si è trovato tutto in una notte il Napoli. Ciao Roberto. Ciao. Buonasera. Veniva da 1000 critiche, da un inizio di stagione difficile con 2 soli pareggi nelle prime 3 di campionato. Sarri ha un po' cambiato e mischiato le carte, ha fatto il tridente, ha cambiato un paio di elementi anche a centrocampo in difesa, ne è uscito un 5-0 contro una squadra tutt'altro che banale, perché questi belgi l'anno scorso erano arrivati ai quarti di finale dell'Europa League e sono stati di fatto eliminati senza mai perdere. Hanno perso la finale dei playoff del campionato belga, quindi erano e sono una squadra comunque sulla carta assolutamente competitiva. Il Napoli ha fatto una partita praticamente perfetta, ha risolto tutto nei primi 25 minuti con Calleone e una doppietta di Mertens, e poi nella ripresa ha arrotondato fino al 5-0 finale con Amsic e poi ancora con Calleone, dunque 2 doppiette dei 2 giocatori, gli esterni che fin qui erano stati impiegati fuori ruolo come punte aggiuntive a Higuain. Questa sera, come detto, Sarri è tornato al 4-3-3, ha avuto questo tipo di risposta, probabilmente è un'indicazione che sarà importante anche per il campionato. Il livello di soddisfazione però sta crescendo, perché anche la Fiorentina è in vantaggio 1-0 contro il Basilea. In questo momento sono due le partite degli italiani che sono in corso. La Fiorentina vince 1-0 con il Basilea, il gol al quarto minuto abbastanza fortunoso di Kalinic. L'altra partita è quella della Lazio, che gioca in Ucraina sul campo del Dnipro, risultato ancora fermo sullo 0-0, e se a Lille sono 27.000, per Dnipro-Lazio sono zero, nel senso che si gioca a porte chiuse per vicende che risalgono alla passata stagione della tifoseria del Dnipro. È sempre un brutto spettacolo da vedere, perché il calcio, come il basket, è sport di grandi emozioni. E d'altronde, se c'è però tanta inciviltà intorno, ogni tanto, giusto, sono queste misure, sono opportune. Sì, tra l'altro vicende capitate proprio nella gara della Dnipro con il Napoli, finale di stagione dell'anno scorso. Giovanni Capuano, ci aggiorniamo allora dopo su queste due partite, grazie intanto. A dopo. A dopo. E do un'occhiata velocissima ai vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, perché tra pochi istanti c'è la viabilità. Per esempio, dice Matteo da Milano, è chiaro che non esiste nessuna minoranza PD. Quando si arriva al dunque, si allineano criticamente, poltrona acriticamente, vorrei forse dire, poltrona e vitalizio. Effettivamente, ieri c'è stata grande battaglia, continuava a esserci battaglia a proposito del dibattito sulle riforme, la riforma del Senato, però oggi la minoranza PD, in questo primo passaggio del disegno di legge Boschi al Senato, ha votato con la maggioranza, effettivamente. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Arrivano i messaggi al 349-238-6666, ma anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio, Marco scrive: quindi anche un uomo sterile può diventare padre con questo metodo? Ne parleremo più tardi, sempre qui Effetto Notte, Marco, a proposito di questa eccezionale esperimento, chiamiamolo per il momento, che viene dalla Francia, dove sono stati creati in vitro degli spermatozoi. Ne parleremo dopo. Adesso vi ricordo invece le notizie più importanti della giornata e poi cominciamo ad entrarci negli argomenti. A proposito di politica italiana, il disegno di legge Boschi sulle riforme è in aula al Senato fra le proteste, ma la minoranza PD vota con la maggioranza, le opposizioni all'attacco. Renzi pressa sul presidente Grasso, che dice le istituzioni non devono finire in un museo. Onda di migranti sfonda il cordone della polizia in Croazia, Croazia che dice siamo al collasso. Tusk, presidente del Consiglio europeo, convoca un vertice straordinario dell'Unione europea per il 23 settembre. E poi l'economia italiana con la Confindustria che vede la ripresa più 1% per il prodotto interno lordo e più lavoro. Terremoto e tsunami in Cile, anzi è stato più un'allerta tsunami, 10 morti, 1 milione gli evacuati per questa scossa di magnitudo 8,3, per fortuna però l'allarme è rientrato. Un terrorista ucciso dalla polizia a Berlino, era di Al Qaeda, un iracheno in libertà vigilata che ha attaccato una poliziotta con un coltello. E poi Staminali contro la SLA, bene il trapianto è andato sui primi 18 malati. E poi l'altra cosa di cui appunto parleremo, questa creazione di spermatozoi in vitro, che è la prima volta nel mondo. Andiamo su cose più prosaiche adesso, parliamo di politica monetaria. La Fed, la banca centrale americana, la Federal Reserve, ha preso la decisione, si aspettava una giornata febbrile in cui si voleva capire se avrebbe deciso di alzare i tassi, di lasciarli uguali. Pare che Chicco Padulla, vice direttore del Sole 24 Ore, ciao Chicco. Ciao, buonasera. Li abbiamo lasciati tal quali, no? Sì, confermo. Mi confermi. Alle ore 20 è arrivato puntualissimo il comunicato della Fed, che ha deciso di mantenere i tassi a livello attuale. Ci spieghi, Chico, tu con la tua bravura, la tua chiarezza, significa il costo del denaro, quello che si paga di interesse. Denaro, sì. Sì, esattamente. Diciamo il costo base del denaro, che attualmente negli Stati Uniti, diciamo, è a seconda delle tipologie tra lo 0 e lo 0,25%, quindi diciamo che costa pochissimo, come peraltro anche in Europa noi siamo allo 0,05%. Senti, la Presidente Yellen perché ha preso questa decisione? L'ha detto alla conferenza stampa, no, che è seguita. Sì, dunque, c'erano alcuni elementi che spingevano per un possibile rialzo dei tassi. E cioè la banca, la Federal Reserve ha sempre detto che quando il mercato del lavoro americano sarebbe ritornato a livelli di assoluta salute, allora avrebbero alzato i tassi di interesse per cercare di raffreddare un poco l'economia e non creare tensioni sul mercato del lavoro. Questo obiettivo effettivamente è stato raggiunto, ma nel frattempo si è presentato un altro problema, che è un problema che anche in Europa abbiamo, quello dell'inflazione troppo bassa, cioè anche gli Stati Uniti soffrono di una sorta di stato di deflazione, con i prezzi che faticano a crescere, e questo noi sappiamo che all'economia non fa benissimo. Il tutto poi è stato aggravato in queste ultime settimane anche dagli scenari poco incoraggianti che si intravedono per i paesi emergenti, quindi la Cina, il Brasile, eccetera. Allora, per evitare di creare tensioni su quel fronte, con un'inflazione che resta ancora troppo bassa e che invece ha bisogno di crescere un pochino, la Fed ha deciso di mantenere ancora fermi i tassi. Pensa che l'ultima volta che li hanno aumentati i tassi era nel 2006, quindi 10 anni fa. Allora si era al 5,25%, oggi siamo a 0,25%, quindi un mondo completamente, completamente diverso. Scusa, interrompo. Volevo ritornare invece sulle questioni più strettamente italiane e sentire Squinzi, presidente di Confindustria, che cosa ha detto. Se Confindustria e il Centro Studi si sono mostrati piuttosto ottimisti sull'economia, sulle prospettive dell'economia italiana. Sentiamo. Credo che il nostro paese possa rapidamente e sicuramente riprendere il ritmo di crescita del 2%, che è quello che poi è necessario per ritrovare una crescita vera nell'occupazione, una crescita determinata da un aumento delle proprie capacità di stare sui mercati, e questo è che poi è la crescita più solida. Quindi addirittura ha visto al rialzo le stime rispetto a quelle del governo, cioè dell'ottimismo. Oggi Centro Studi Confindustria ha rivisto le stime di crescita al rialzo. Il PIL, secondo queste rilevazioni, aumenterà quest'anno dell'1%. In precedenza si pensava che il PIL sarebbe cresciuto dello 0,8%, invece dicono dell'1%, e dell'1,5% nel 2016, l'anno prossimo. La cosa, direi, in un certo senso nuova è che forse per la prima volta questo miglioramento del prodotto interno lordo sembra destinato ad avere un impatto positivo anche sul mercato del lavoro, con un leggero calo della disoccupazione e soprattutto con 500.000 nuovi posti di lavoro che saranno creati tra il 2015 e il 2016. Però noi diciamo: va bene, allora questo ci deve far cantare vittoria, siamo fuori dalla crisi, cominciamo a vedere, e è un segno positivo, no? L'ha detto anche il presidente Squinzi, è un segno positivo, però non dobbiamo scordare che gli altri paesi europei crescono non dell'1% ma del 2%, che in Italia ancora tanto c'è da fare per rafforzare il sostegno agli investimenti, per tentare ancora di incidere, di ridurre il costo del lavoro in modo da sostenere ancora di più l'occupazione. Continua ad esserci anche un problema di liquidità per le imprese che nei prossimi mesi bisognerà affrontare e risolvere. Quindi una buona notizia. Tra l'altro aggiungo che proprio domani anche il governo rivedrà le sue stime di crescita. In realtà le rivedrà in misura leggermente inferiore a quelle di Confindustria, perché il governo stima che per il 2015 noi cresceremo dello 0,9% e non dell'1% come dice di solito. Sembra un po' decimali, a volte il contrario, no? È più il governo che tira. Ti faccio sentire per chiudere questa cosa che ha detto ieri Squinzi, che ha fatto un po' discutere. Mi sembra di comprendere che la maggior parte di quelli che vengono in Italia hanno come destino, come meta finale qualche altro nostro paese, quindi in questo momento purtroppo non è l'immigrazione che può risolvere i nostri problemi. Cioè, noi abbiamo bisogno di ridare lavoro innanzitutto agli italiani, quando abbiamo oltre il 13% di disoccupazione, abbiamo il 40% di disoccupazione giovanile, diciamo che sarà una visione un po' egoistica, però cominciamo a ridare un futuro ai nostri giovani e una velocità al paese. Ecco. Vuoi chiudere con una battuta, Chicco Padula? Ma sì, io insomma penso che gli immigrati rappresentino senz'altro una risorsa, diciamo, per l'Italia, per l'Europa. Insomma, vediamo ad esempio come si sta comportando la Germania, quale approccio hanno. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che da noi il problema della disoccupazione è, direi, in assoluto il problema numero uno, quindi su questo fronte bisogna davvero fare molto, ed è qui che ritorniamo un po' a quello che si diceva prima, cioè anche con questa legge di stabilità che arriverà insomma tra qualche settimana bisogna lavorare molto, pensando appunto che il problema del lavoro è forse il principale, il più urgente problema da risolvere. Grazie Chicco Padula, buon lavoro. Grazie a te. Ciao. In occasione del Consiglio europeo di mercoledì ci sarà senz'altro la possibilità di ribadire il messaggio. Se oggi ci sono dei paesi che fanno parte dell'Unione europea, accanto alla Francia, all'Italia e agli altri paesi fondatori, è perché qualcuno ha abbattuto un muro e ha dato a quei popoli la possibilità di benessere, di libertà e di futuro. Questo ha detto Renzi, fra le altre cose, nella conferenza stampa che è seguita all'incontro col presidente francese Hollande questa sera a Modena, prima di andare, vi dicevo, a cena. E è una cosa che Renzi ripete da tanto tempo, finché poi anche buona parte dell'Europa, insomma, si è trovata coinvolta in quello che all'inizio, diciamo, sembrava solo un nostro problema. Però queste sono le parole, poi nei fatti, diciamo, sicuramente l'Europa sta cercando di affrontare il problema, ma ci sono aperture, chiusure, cambiamenti di rotte. Finora si è parlato del Mediterraneo, continua naturalmente ad arrivare flussi di migranti dal Mediterraneo, però adesso anche, lo sapete, attraverso i Balcani, con Radio 24 stiamo raccontando le diverse rotte dei migranti. Cosa succede? Che in Ungheria si continuano ad alzare questi muri. L'Ungheria ha anche annunciato di volerlo fare con la Romania, che si è molto arrabbiata, contrariata, e con la Croazia, perché la Croazia proprio ieri aveva detto: noi li lasceremo passare, però nell'arco di pochissime ore ne sono arrivati 7.300 di migranti in Croazia, e poco fa, diciamo nelle ultime ore, la Croazia ha annunciato di essere proprio satura e rischia il collasso, e quindi ha chiesto questo vertice di straordinario d'emergenza che ci sarà il 23 settembre. Ne parliamo con Gigi Donelli. Ciao Gigi. Ciao Roberta, buonasera. Quindi questa è la situazione, e sviluppi che ci sono giorno per giorno, quasi minuto per minuto alla fine, no? Sì, anche perché i migranti ovviamente ascoltano anche loro le informazioni, quindi certo, si muovono sulla base delle informazioni che ricevono e si spostano. Ovviamente quello che stavi appunto descrivendo sulla Croazia, vale la pena ricordare che le frontiere in questione, quella che per diciamo la settimana scorsa sulla quale ci siamo concentrati e quella di cui parliamo questa sera, non distano che un centinaio di chilometri, quindi una volta che il blocco, diciamo il passaggio ungherese, si è progressivamente chiuso, le persone si sono spostate sulla frontiera successiva. Tu, e così continuerà. Hai fatto un viaggio in questi giorni attraverso queste frontiere? Sì, lo stiamo facendo, no? Con i colleghi di Radio 24. Due sere fa ero ancora a Budapest, e la settimana prima avevo visto una Budapest, letteralmente una stazione che Leti di Budapest sovraffollata di migliaia di persone. Mi sono trovato in una notte trascorsa con queste migliaia di persone in cerca appunto di un passaggio verso l'Europa più ricca. Quando poi sono ritornato alcuni giorni dopo erano rimasti davvero pochissimi, alcuni erano riusciti a passare, altri si sono rispostati verso sud. Insomma, è un movimento costante. Bisogna anche dire però, e io questo ci terrei a dirlo, che i numeri che tu stessa hai descritto, 7.000 persone, non sono una invasione epocale. I paesi dell'Unione Europea in queste ore stanno facendo un po' tutti un gioco doppio, che da una parte è quello di apparire più o meno disponibili, e c'è effettivamente la disponibilità, così come gli ungheresi e la popolazione ungherese ha aiutato queste persone. Hai detto che c'erano dei volontari che aiutarono, c'erano anche molti se l'Ungheria volontari. apparsa un po' come la cattiva in questi giorni. L'Ungheria appare come la cattiva ormai da 4-5 anni per tutta una serie di questioni che riguardano la libertà di espressione, riguarda per esempio il fatto che l'Ungheria, non appena l'Unione Europea ha deciso delle sanzioni contro la Russia, nello scorso mese di novembre ha invitato il presidente Putin. Insomma, l'Ungheria si muove come tutti i paesi cercando un doppio binario: da una parte l'interesse verso il centro dell'Unione Europea, verso Bruxelles, dall'altro quelli che sono gli interessi individuali e personali. In Europa dell'Est ovviamente ci sono dinamiche e interessi che sono diverse dalle nostre, e le relazioni con i paesi oltre, e quindi l'Ucraina, la Russia, sono più complesse. Insomma, detto ciò, è sicuro che, come diceva poco fa Chico Padula, un paese come il nostro che fa i conti con la disoccupazione, perfetto, la Croazia ha il doppio della nostra disoccupazione, quindi come dire, ciascuno ha la propria disoccupazione, le proprie difficoltà. Le alternative alla fine si riducono sempre a due: o muri davvero, però allora bisogna essere pronti a tutto, perché loro, quelli che si muovono, di fatto spesso lo sono, oppure questo tentativo di gestire un evento comunque di portata sicuramente molto grande, epocale, anche se poi abbiamo la memoria corta, perché non dimentichiamo che negli anni 80 accadde una situazione analoga col crollo, ma soprattutto col crollo del muro di Berlino alla fine degli anni 80, quando interi gruppi di popolazioni si mossero da est verso la Germania. Ecco, noi ne parlavamo meno, i tedeschi invece dicevano è l'invasione. Detto ciò, è un fenomeno molto complicato, con delle lampadine che si accendono. La Croazia sta sera, probabilmente domani sarà la Slovenia. Ci sono 300 chilometri tra la frontiera di cui parliamo questa sera e la prossima. Una parte di queste persone probabilmente nelle prossime 48 ore busserà un'altra porta. Peraltro a quella porta ci siamo anche noi, perché naturalmente dopo la Slovenia o si va di nuovo verso l'Austria o si va verso l'Italia. Probabilmente il nostro è un paese più abituato, i paesi dell'Europa centrale e orientale meno negli ultimi anni. Grazie Gigi Donelli. Naturalmente di giorno in giorno, come dicevo, continueremo a raccontare quello che succede con questa pressione migratoria così, così forte, e con l'Europa che continua a essere nel caos al di là dei vertici. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi parliamo di questa, di questo esperimento di creazione di spermatozoi in vitro. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi che stanno arrivando sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire sempre giorno e notte senza indugio, e poi al 349-238-6666 messaggi, tra cui quello di un ascoltatore che diceva non si chiamava Salvatore Padula o è un altro, no, è Salvatore, ma amichevolmente lo si chiama Chicco, ecco, sapete, vari, cioè, si chiamano Chicco anche personaggi ancora più noti. Ma adesso vi rendo note le notizie più importanti della giornata, molti accendono in momenti diversi, ricordatevi di accendere sempre puntualmente alle 21. Poi entreremo nel cuore di un argomento importante come quello della creazione per la prima volta al mondo di spermatozoi in vitro. Riforme: tra le proteste in Senato avanza il disegno di legge Boschi, il presidente Grasso avverte l'istituzione non si mette nel museo. Migranti: sono oltre 7.000 i profughi arrivati in Croazia, anche sfondando le barriere. Zagabria dice siamo saturi. Il 23 settembre, vertice straordinario dell'Unione Europea. Costo del denaro: la Fed lascia invariato il costo del denaro, i tassi restano fermi in una forchetta tra lo 0 e lo 0,25%. Per l'economia italiana, Confindustria vede la ripresa, una crescita del più 1% del PIL e più lavoro. Il terremoto in Cile, 10 vittime per la scossa di magnitudo 8,3, 1 milione di evacuati per la paura tsunami, ma l'allerta è rientrata. Scienza e salute, ne parleremo tra pochissimo. E per lo sport, gli europei di pallacanestro, l'Italia batte la Repubblica Ceca 85-70, e poi in Europa League il Napoli travolge il Bruges per 5-0 e sono in campo Lazio e Fiorentina. 1-0 per la Lazio, mi aggiornano in questo momento con una certa esultanza qualcuno, ma adesso invece parliamo di questa prima volta al mondo in cui sono stati ottenuti degli spermatozoi umani completamente in vitro, a partire dal tessuto di un uomo sterile prelevato dai testicoli. Lo ha annunciato Callistem, che è una startup, una società del Centro Nazionale Ricerche francese, durante una conferenza stampa. Questa tecnica potrebbe, secondo i ricercatori, servire a preservare la fertilità di bambini che magari sono sottoposti a delle delle terapie potenzialmente pericolose come la chemio, oltre a trattare dei casi gravi di infertilità. Ma chiediamo se davvero è una rivoluzione questa al professore Andrea Salonia. Buonasera professore. Buonasera, buonasera. Urologo e andrologo all'ospedale San Raffaele di Milano. Andrea Salonia, allora, chiede già un ascoltatore, questo significa che quindi potrà essere curata definitivamente l'infertilità maschile? Beh, la domanda dell'ascoltatore è più che pertinente. Facciamo un passo indietro, se possibile. Il primo criterio della scienza è avere dei dati che comprovino quanto è stato promosso o pubblicato. Il problema reale è che il Centro Nazionale di Ricerca francese, meglio la sua startup Callistem, ha solo annunciato quanto potenzialmente scoperto, che di per sé è espressione di una rivoluzione concettuale enorme, perché effettivamente metterebbe nella condizione sia i pazienti con quella che si chiama azoospermia, cioè un'assenza pressoché totale di spermatozoi, che pazienti con potenziale danno testicolare, quali quelli a cui si faceva riferimento poc'anzi, quelli che devono sottoporsi a una terapia di tipo chemioterapico con potenziale danno. Il problema reale è che noi dobbiamo essere certamente ottimisti, assolutamente possibilisti, non abbiamo dati di certezza perché Callistem non ha effettivamente rilasciato dei dati sui quali ragionare, ha fatto un annuncio, quindi certamente un dato straordinario, l'idea di poter avere in vitro per la prima volta degli spermatozoi è di per sé appunto straordinario, il mondo della scienza è ancora un po' nella condizione prudente, di interrogarsi, cioè. Esatto, la prudenza qui è assolutamente mandatoria. Andrea Salonia, però che cosa significa? Sono degli spermatozoi artificiali oppure essendo state prelevato del tessuto dai testicoli di un uomo in carne ed ossa sono... No, non si parla di spermatozoi artificiali, si parla di spermatozoi prodotti in vitro, il che significa che se pensate che una quota del testicolo, il testicolo è fatto, immaginiamoci, di due cani. C'è una camera che produce spermatozoi e una camera che produce testosterone, questi sono, che è il nostro ormone maschile per definizione, questi sono i due ruoli del testicolo. Il testicolo, che di per sé è in grado di produrre spermatozoi, lo fa perché ha delle cellule che si chiamano cellule germinali. Queste cellule germinali possono essere, nei casi di azoospermia, cioè di pazienti affetti da infertilità, assenti. Il prelievo di un tessuto dal quale, partendo da delle cellule primordiali, si è poi arrivato, che non sono delle linee germinali, si è arrivato a produrre spermatozoi, non è uno spermatozoo artificiale, ma è uno spermatozoo ottenuto in vitro. Come vuol dire mettere, immaginatevi al di fuori del corpo, su una, un pezzettino di vetro, lo rendo molto semplicistico, sì, delle cellule dalle quali ottenere degli spermatozoi, cellule lontanissime dallo spermatozoo, di per sé incapaci di produrre spermatozoi, che arrivano a produrne. Per cui è veramente straordinario. Quindi, per concludere, è straordinario, Andrea Salonia, ma aspettiamo comprovate conferme scientifiche. È fondamentale, il che non vuol dire togliere le speranze, vuol dire solamente renderle più giuste da un punto di vista scientifico. Grazie Andrea Salonia. Grazie a voi, grazie. Grazie. Buona viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccovele qui le notizie in pochi secondi. A proposito di politica italiana, il disegno di legge Boschi, quello sulle riforme, è in aula al Senato fra le proteste, ma la minoranza PD vota con la maggioranza e l'opposizione invece all'attacco, mentre Renzi pressa il presidente Grasso del Senato e lui dice: ma le istituzioni non si mettono in museo. E poi l'onda di migranti che sfonda il cordone di polizia in Croazia, la Croazia che aveva aperto ieri le sue frontiere e la sua disponibilità all'accoglienza, oggi dice di essere satura e quasi al collasso e viene convocato un vertice straordinario europeo per il 23 settembre. La Confindustria per l'economia italiana vede la ripresa, più 1% il prodotto interno lordo e anche più occupazione, e mentre la Banca Centrale Europea raccomanda all'Italia di usare il tesoretto per tagliare il deficit. Terremoto in Cile, 10 i morti, 1 milione di evacuati per questa scossa di magnitudo 8,3, c'era l'allerta tsunami che per fortuna è rientrata. A Berlino è stato ucciso un terrorista della polizia, era di Al-Qaeda, un iracheno in libertà vigilata che ha attaccato con un coltello una poliziotta. E poi ne abbiamo appena parlato di questi spermatozoi creati per la prima volta al mondo in vitro. E l'altra notizia buona, per il momento sempre con prudenza, è quella degli staminali trapiantate contro la SLA, bene il trapianto sui primi 18 malati. Europa 24. Tornano le giornate europee della cultura questo fine settimana. Come ogni anno, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo aderisce a questa giornata europea del patrimonio, manifestazione promossa dal 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea con l'intento di potenziare e favorire il dialogo, lo scambio culturale tra le nazioni europee. La manifestazione avrà luogo sabato e domenica e riguarderà tutti i luoghi della cultura statale, compresi anche archivi e biblioteche. Nella serata poi di sabato 19, nei siti aderenti all'iniziativa, è prevista un'apertura straordinaria dalle 20 alle 24 e l'ingresso ai musei col costo di un euro. Ne spiega il significato, che riguarda anche l'emergenza immigrazione, la segretaria generale del Ministero, l'architetta Antonia Pasqua Recchi, al microfono di Anna Marino. L'iniziativa è del Consiglio d'Europa e è un'iniziativa che dura da oltre 20 anni e è volta a far sì che in tutti i paesi d'Europa, quindi non soltanto i paesi dell'Unione Europea ma anche gli altri paesi che non sono nell'Unione, si tratta di più di 50 paesi, ci siano negli stessi giorni manifestazioni culturali per i luoghi della cultura, quindi musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche, per avvicinare i cittadini europei al loro patrimonio. In Italia che cosa succede? In Italia nei musei dello Stato succede che ci sono aperture straordinarie serali dalle 8 alle 24 di sabato al costo simbolico di un euro, e nei musei statali. E poi ci sono tantissime altre iniziative in altri luoghi culturali come archivi, biblioteche. Si tratta di manifestazioni diffuse su tutto il territorio, soprattutto nei luoghi meno frequentati, ma molto belli, molto importanti, che è bene che i cittadini italiani conoscano. Quindi un euro per visitare la sera di sabato luoghi straordinari. L'elenco si trova sul sito del Ministero www.beniculturali.it e saranno delle occasioni molto belle anche per avere delle esperienze diverse, perché poi ci sono animazioni, iniziative correlate alla visita museale. Le giornate europee del patrimonio che significato hanno, e soprattutto ci sono anche dei fondi per queste? Nel caso dei musei dello Stato i fondi sono quelli legati alla gestione ordinaria del museo e al pagamento dello straordinario per il personale che tiene aperto fino alla sera del sabato. Negli altri luoghi certamente ci saranno le risorse dei soggetti che organizzano. Il significato è quello di rafforzare l'identità europea, di rafforzare la consapevolezza che il patrimonio culturale d'Europa è un patrimonio che unisce i cittadini d'Europa e quindi rafforza la loro identità, e li rafforza anche nel senso di avere meno paura nei confronti di coloro che non sono europei. Più si è forti della propria identità, più si è disposti ad accogliere quelli che vengono considerati diversi. Questo è un messaggio anche molto forte dei valori europei rispetto ai rifugiati, sì, alle emergenze di adesso. Certamente, questo è uno degli obiettivi del Consiglio d'Europa, che appunto ha patrocinato, voluto che si organizzassero queste giornate. All'estero gli cittadini possono muoversi, e quanta informazione c'è rispetto a queste giornate europee del patrimonio? Noi in Italia abbiamo un piano di comunicazione notevole, ma lo stesso avviene negli altri paesi che aderiscono, sono oltre 50. Questo non fa che rafforzare il senso della identità comune, perché il messaggio è quello. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus. Ci eravamo lasciati quasi all'inizio con Giovanni Capuano per quanto riguarda l'Europa League, con un Napoli che ha travolto il Bruges per 5-0. Una Lazio che conduce per 1-0. Giovanni? Sì, la Lazio conduce per 1-0, siamo all'intervallo perché è proprio appena finito il primo tempo e la Lazio sta vincendo in Ucraina contro il Dnipro 1-0. Ha segnato il gol Milinkovic-Savic, questo nuovo giocatore della Lazio, al 34esimo, un bel colpo di testa un po' impreparato la difesa del Dnipro. Milinkovic-Savic ha preso il tempo al suo difensore, i due si sono anche un po' spinti, c'è stata qualche protesta, però complessivamente mi è parsa un'azione regolare. È stato poi bravo ad anticipare di testa il portiere, a metterla dentro. Dunque 1-0 per la Lazio in trasferta. e sta vincendo anche la Fiorentina, Roberta. Sempre 1-0 contro il Basilea, lo avevamo detto, il gol di Kalinic dopo 4 minuti, un po' fortunoso, cadendo e toccando forse la palla anche con il braccio, però sta giocando molto bene la Fiorentina, sta meritando assolutamente il vantaggio, così come lo sta meritando la Lazio, che prima del gol di Milinkovic-Savic aveva sfiorato la rete con Matri, e quindi insomma sono andate entrambe al riposo giustamente in vantaggio per 1-0. Il conto, finissero così le cose, ci regala un bilancio fin qui straordinario per le italiane in Europa, perché noi in Champions abbiamo avuto una vittoria, quella bellissima della Juventus a Manchester, abbiamo avuto un pareggio bellissimo della Roma contro il Barcellona, stiamo facendo 3-3 in Europa League. Insomma, noi lo diciamo piano, Roberta, perché siamo alla prima settimana europea e poi siamo anche al primo tempo di Fiorentina e Lazio. Però stiamo, ci speriamo, confermando quello che avevamo visto l'anno scorso, quando avevamo visto un'inversione di tendenza nel comportamento delle italiane in Europa. Grazie Giovanni Capuano, poi vedremo se si mantengono questi risultati fino alla fine delle partite. C'è un ascoltatore al 349-238-6666, poi lo sapete, c'è sempre per voi la pagina Facebook di Effetto Note anche quando finisce il programma, che dice: vedo che dei risultati proprio non si vuole parlare, né del promesso anticipo della pensione prendendo meno, ma l'hanno detto in questi giorni che purtroppo quell'opzione per il momento, quella della pensione anticipata, non è possibile. Degli esodati, Padoan ha detto ieri, il governo ci sta lavorando, certo è un grosso problema, si spera in una soluzione quanto prima. Ci sentiamo alle 22.